Meine Damen und Herren, ist es zu viel von Ihnen verlangt, wenn ich Sie noch einmal bitte, Ihre Plätze einzunehmen? Frau Kollegin Geringer de Oedenberg, als Quästorin dieses Hauses, darf ich Sie bitten, sich hinzusetzen. Schönen Dank. Mr. President of the European Parliament, Mr. President of the Commission, Mr. Prime Minister of Hungary, honorable members, commissioners. Today Parliament will discuss the situation in Hungary. Let me be absolutely clear. All EU member states must comply with the rules of the treaty. This goes for Hungary as it goes for any other member states. Thank you, Mr. President. Vielen Dank, Herr Bammen. Das Wort hat nun für die Kommission Herr Präsident Barroso. Thank you, Mr. President. I very much welcome the opportunity to take part in this debate today on developments in Hungary and to present clearly the Commission's approach and role in this regard. This is an extremely sensitive matter where I believe we have to be clear on values, firm on principles, fair on method, and sensible on communication. The Commission has been closely monitoring developments related to the new Hungarian constitutional system since the beginning of 2011. We were in contact with Hungarian authorities during the preparation of the draft cardinal laws implementing the new constitution, raising our concerns over the compatibility of these laws with European Union law. Similar concerns were raised, among others, by the European Central Bank and International Monetary Fund. Honourable members, beyond the legal aspects, some concerns have been expressed regarding the quality of democracy in Hungary, its political culture, the relations between government and opposition, and between the state and the civil society. I strongly appeal to the Hungarian authorities to respect the very principles of democracy and freedom and to implement them, not only the norms, but also in the practice and in the political and social life in this country. Above all, we will continue to urge the Hungarian government to act in a responsible and democratic manner and in the best interest of all Hungarian citizens. We want Hungary to go on being a respected member of the European Union. This should not be a debate against Hungary, but for Hungary and with Hungary. We believe that this is in the best interest of Hungary and of all our European family. I thank you for your attention. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich hatte zu Beginn dieser Debatte Ihnen mitgeteilt, dass Herr Ministerpräsident Orbán Mélyen tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy fél évvel a magyar elnökség után ismét itt lehetek önök között. Mindig öröm egy parlamentben felszólalni, mert bármilyen is egy intézményrendszer, a demokrácia mégis a parlamentben működik. A parlament a demokrácia szíve, magam is így gondolom, ezért 1990 óta parlamenti képviselő vagyok. Köszönöm, Schulz elnök úr. Presidente Schulz, che mi permette di intervenire qui, parlare all'Aula oggi. Sono molto grata alla Presidenza che non ha ostacolato il mio contributo, anzi l'ha sostenuto, e ringrazio lei e anche il Presidente Barroso per le sue parole. Sono venuto qui perché mi avete detto che desiderate più informazioni sull'Ungheria, un dibattito sull'Ungheria, e penso che sia giusto che io sia qui davanti a voi, di modo che voi abbiate informazioni di prima mano sulle intenzioni del Parlamento ungherese. Credo che sia giusto che io venga qui, ricordando che c'è molto interesse in questo momento verso verso l'Ungheria, ricordando che abbiamo la crisi economica in Europa in questo momento, quindi credo sia il momento giusto per me per essere qui. Innanzitutto devo dire che per quanto riguarda l'interesse che avete dimostrato nei confronti dell'Ungheria, è importante rispondere a questo interesse. Quello che succede nel nostro Paese è un processo di rinnovamento molto eccitante negli ultimi 6 mesi, rinnovamento necessario e urgente. Nel 2010 il nostro Paese era minacciato dal collasso economico, la nostra popolazione di 10 milioni contava meno 3 milioni di persone che non vivevano dell'economia ma degli aiuti dello Stato. Avevamo poi anche organizzazioni paramilitari nel nostro Paese. Il nostro Paese davvero era sull'orlo del collasso, la situazione era terribile. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo abbiamo fatto un lavoro straordinario, siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Certo, riconosco che abbiamo ancora gravi problemi economici, ma per la prima volta in Ungheria adesso abbiamo un bilancio in Ungheria allineato sui principi europei quanto alla stabilità. Stiamo riducendo il debito pubblico, stiamo cercando di arrivare a un equilibrio, un bilancio attivo, abbiamo vietato le organizzazioni paramilitari e quindi oggi abbiamo anche la protezione per tutte le minoranze in Ungheria, le minoranze, i Rom, la popolazione, gli ebrei, tutti sono protetti in Ungheria. Il governo ungherese continuerà a difendere sempre in futuro queste minoranze. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo abbiamo realizzato una nuova Costituzione, 35 leggi fondamentali e 135 altri articoli di legge. Nel corso degli ultimi mesi 365 leggi nel complesso sono state approntate. Abbiamo effettuato riforme strutturali, abbiamo riorganizzato il sistema di governance, il sistema del governo locale, dell'amministrazione pubblica, il sistema giudiziario, il sistema dell'istruzione, il sistema sanitario, il sistema fiscale, il sistema pensionistico, come anche il sistema sanitario, tutti sono stati riveduti, organizzati, tutto quello che ha a che vedere con il debito pubblico. E evidentemente tutto ciò è avvenuto in una situazione nella quale c'erano interessi commerciali, c'erano lobby che non sempre erano molto soddisfatti della situazione. Pensiamo per esempio alla tassazione delle banche, vista la situazione attuale del debito. Nel 1949 è stata realizzata una Costituzione comunista. E anzi, noi siamo stati gli ultimi paesi occupati a preparare una Costituzione nuova da quell'epoca. Ricordo a tutti i parlamentari, parliamo qui di un rinnovamento dell'Ungheria, parliamo di principi e di valori europei. Tutto questo lavoro l'abbiamo fatto sulla base di questi principi e valori. Noi ci siamo basati sulla prassi degli altri membri dell'Unione Europea, ci siamo basati anche su quelli che sono i documenti di base fondamentali dell'Unione Europea. Parliamo qui di una ristrutturazione di enorme portata, di importanza notevole ed è assolutamente comprensibile, capiamo tutti, anche l'Ungheria capisce che se ne possa discutere. Oggi effettivamente io ho scritto una lettera al Presidente della Commissione Barroso esprimendo il mio parere nella lettera. Dico che i problemi che sono stati sollevati dalla Commissione potrebbero essere risolti facilmente e rapidamente. La settimana prossima infatti ci incontreremo di nuovo e spero davvero che riusciremo ad arrivare a una rapida soluzione. Colgo l'occasione poi per informare i membri di questo Parlamento di quanto ci ha inviato la Commissione su alcune norme giuridiche che non hanno niente a che vedere con la Costituzione dell'Ungheria. I giornalisti magari ve la dicono, vi raccontano una storia diversa, però non c'è una unica obiezione che riguardi la Costituzione ungherese adottata il 25 aprile dell'anno scorso. La Costituzione, il preambolo che è stato adottato il 25 aprile dell'anno scorso, non ci sono problemi, abbiamo delle norme transitorie che fanno parte della Costituzione, ci sono due obiezioni alla Commissione a proposito di queste norme transitorie e mi sembra che non sarà problematico risolvere queste norme transitorie, siamo a vostra disposizione per dare la nostra collaborazione, ma è chiaro che nemmeno un solo articolo, nessuna norma della Costituzione ungherese è stata messa in dubbio giuridicamente ed è una cosa molto positiva. Vi sono molto riconoscente, signore e signori, di avere la possibilità di dirvi tutto questo personalmente e vorrei chiedervi per cortesia, noi stiamo vivendo una trasformazione profonda in Ungheria e vi chiedo di sostenere questa transizione, questa trasformazione, penso sia importante per il futuro e l'Ungheria conta sull'appoggio del Parlamento Europeo che per noi è importante. Grazie. Grazie, signor Primo Ministro Orban.